get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera a tutte. Buonasera, Rosina, buonasera a tutte. Non cominciare a ridere perché se cominciamo subito è la fine. Allora, questa sera in studio siamo io, Caterina e Rosina. E quella che state per ascoltare è la nostra 209esima trasmissione. Una trasmissione un po' particolare, ecco, sì. Ve lo diciamo subito. Come la definiamo? Una trasmissione un po' così, un po' naif la potremmo definire. Libera, ma non liberamente. Esatto. No. Libera nostra malo. Dunque, la realtà è questa: stasera pensavamo di proporvi una intervista ad una compagna argentina che si chiama Munu Actis, è una muralista che si trova qui in Italia per eseguire un lavoro per il Comune di Roma. Purtroppo Munu questa sera non è ha potuto... avuto un impedimento improvviso. Esattamente, quindi non è qui fra di noi, e lo sarà invece la settimana prossima. Quindi vi invitiamo a seguire l'intervista che faremo a Munu la settimana prossima, per cui stasera andiamo un po' a ruota libera. Noi abbiamo pensato comunque di darvi delle notizie che ci sembrava fossero importanti, tipo per esempio fare un minimo di resoconto. Il numero del telefono. No, a proposito di numero del telefono, potremmo ricordare quello della radio che è 06 49 17 50, oppure quella del nostro cellulare che rimane attivo soltanto per il tempo della trasmissione che è 338 41 46 682. E poi ecco, no, volevo dire che magari faremo un piccolo resoconto dell'iniziativa alla quale abbiamo partecipato sul 50 e 50, inizialmente. Dopo, se ci rimane un po' di tempo, leggiamo anche il comunicato che abbiamo letto sul palco. E poi niente, siccome poi vi diremo che iniziativa ci sarà a breve come ripresa dei nostri lavori all'interno della Casa Internazionale delle Donne come centro femminista separatista, quindi questa iniziativa che ci sarà il 20, per farvi abituare all'idea e farvi entrare nell'atmosfera della nostra prossima iniziativa, abbiamo portato del materiale che speriamo vi possa... che condivideremo con voi. Assolutamente sì. Vabbè. Non vi staccate dalla... Esatto. E poi, siccome adesso praticamente non abbiamo preparato niente, non so più che dire, io direi mandiamo una bellissima canzone subito che... Dunque... Only a woman's heart significa soltanto il cuore delle donne? La tua pronuncia è così splendida che non sono riuscita a capire. È la prima? Solo un cuore di donna. Solo un cuore di donna, ecco, quello io con te l'ho detto benissimo. L'hai detto benissimo, lo potevi dire in napoletano, si capiva di più. No, io ripeto, parlo soltanto il finlandese, per cui chiaro, va bene, vado. I mourn for my dreams, I mourn for my wasted love. While I know that I'll survive alone, my heart is low, my heart is so low. As only a woman's heart can be, as only a woman, as only a woman, as only woman's heart can know. My heart is Allora, la canzone sta finendo, quindi aiuto. Era una canzone brevissima. Era una finta, nonostante si supponesse che dovesse durare 3 minuti e 46 esatto, secondi. Esatto. Ha fatto finta. Okay, benissimo. Vedo. Allora, a questo punto, come tutte voi sapete probabilmente, sabato scorso si è tenuta a Roma la manifestazione sì. dell'UDI 50 e 50, ovunque si decide. Ed è stata una manifestazione che vedeva, diciamo, la partecipazione delle donne dei centri di raccolta. Si stanno raccogliendo firme, lo ricordiamo, per una proposta di legge che d'iniziativa popolare. D'iniziativa popolare per appunto la diciamo parità di accesso alle cariche istituzionali e politiche eccetera. E la manifestazione appunto si è tenuta a Roma a Piazza Farnese dalle 2 alle 6 del pomeriggio. E ha dato parola, diciamo, alle donne che hanno in questi mesi organizzato la raccolta delle firme, i centri sì. di raccolta. Hanno parlato anche diverse donne singole, abbiamo parlato anche noi, abbiamo fatto un nostro intervento dal palco su richiesta di Pinanuzzo e la ringraziamo perché ci ha dato appunto l'occasione certo. Di poter parlare. E ricordiamo che noi siamo stati fra i primi gruppi, fra le prime persone ad aderire a questa campagna. E vi faremo sentire, io penso, certo. l'inno del 50 e 50 ovunque si decide, che si chiama Donne in Parola ed è un inno che è stato scritto da Wanda Montanelli, scritto e musicato da Wanda Montanelli. Non è esattamente Alzati che si sta alzando la canzone popolare, ma è stato molto carino, è stato molto bello anche vedere le donne che ballavano e cantavano in piazza sulle note di questa canzone. E, il CD che voi potete acquistare presso l'UDI per fare appunto una sottoscrizione per la campagna. Consta appunto di due versioni della stessa canzone. Una cantata, l'altra appunto versione karaoke, quindi certo. vi potete dilettare a cantare sulla musica. E c'è una piccola introduzione, diciamo, di Pinanuzzo al CD, io ve la leggerei perché sì, sì. rende molto bene lo spirito dell'iniziativa di 50 e 50. Allora, con l'iniziativa 50 e 50 vogliamo scrivere nuove relazioni politiche che sappiano intercettare desideri e saperi di un numero ampio di donne, oltre gli schieramenti partitici e le diverse appartenenze, e sfidare gli uomini a confrontarsi con noi perché in un futuro non più lontano i tempi e l'agenda della politica siano definiti insieme. Assistiamo alla quotidiana voglia di rivincita dei maschi di fronte all'affermazione delle libertà femminili. Assistiamo al ritorno di un fondamentalismo patriarcale violento, sessuofobico, incentrato sulla ricerca di una nuova virilità politica che rafforza le sue protesi artificiali come la guerra e il mercato della prostituzione, che in tempi di globalizzazione è stato promosso direttamente a schiavitù di donne e bambini. 50 e 50 assume la radicalità del conflitto tra i sessi, detto, non taciuto, non rimosso, per realizzare una nuova responsabilità dei generi verso se stessi, verso l'altro e verso gli altri. Una responsabilità su cui rifondare insieme il sistema democratico a partire da autentiche relazioni umane e politiche. Rimettere al centro della riflessione la presenza delle donne e dare corpo e voce alla pluralità e forse risanare una relazione violata. Se le donne non ci sono, il rischio è che un unico soggetto, un unico genere, incarni il bisogno di tutti e di tutte. Il rischio è che si senta legittimato ad una rappresentazione del femminile che confina le donne, quelle vere, nella insignificanza. La presenza delle donne paritaria è la prima barriera vera alla continuità di questo progressivo svuotamento di senso, perciò è necessario che 50 e 50 mantenga il carattere complesso del progetto politico e non sia ridotto ad una contrattazione. La nostra è una proposta che, non volendo mascherare il conflitto tra i generi, ma volendolo riportare ad un confronto e alla condivisione, parla anche agli uomini. Ascoltare e sostenere un nuovo desiderio delle donne di esserci e di contare in luoghi quasi esclusivamente maschili come le istituzioni politiche ed economiche è una sfida anche per noi. È un modo non ancora praticato di darci credito. Passione e responsabilità sono risorse che possediamo e che sono comuni a tante donne. Ci auguriamo di avere il loro sostegno. Questa Pinanuzzo sulla campagna 50-50, ovunque si decide. Per avere ulteriori informazioni, noi abbiamo fatto, lo ricordo, una trasmissione la settimana scorsa. Con Pinanuzzo, è stata qui presente, ha risposto alle nostre domande, è stata molto esaustiva. E ad ogni modo potete trovare le informazioni relative alla campagna 50-50 sul sito www. 50.50.it oppure www.udinazionale.org. Sì, anche perché ricordiamo che le firme sono, è ancora aperta la campagna di raccolta firme, per cui attraverso il sito potete anche andare ad individuare i punti di raccolta a voi più vicino, insomma, no? Sì, potete firmare presso le circoscrizioni o i municipi, come si chiamano adesso. Mi sembra un po' di... Sì, però accettate bene dove siano state messe, perché mi sembra che qualcuno, insomma, dicono che hanno finito i moduli, insomma, ecco, di stare prima di andare là, ecco, informatevi magari andando... Potete andare a Ludi, a Via dell'Arco di Parma, numero 15, vicino a Piazza Navona. E, vi ricordiamo che c'è tempo fino al 30 di novembre. Aspetta, però mi pare che abbiano detto che le firme si raccolgono fino al 15 fino novembre, al 15 novembre. Perché poi devono essere autenticate, vedi, esattamente, del tribunale. Quindi poi se non avete ancora firmato, andate a firmare, portate le vostre nonne, le vostre mamme, le vostre fidanzate, le vostre sorelle, portate anche i vostri fratelli, i vostri mariti, i vostri fidanzati, certo, e via dicendo, perché possono firmare tutte e tutti, uomini e donne. Dunque, senti, io direi a questo punto, prima di leggere il nostro comunicato, se no facciamo lo stesso errore di sempre. No, facciamo lo stesso errore di sempre, di chiacchierare troppo e mettere poca musica. Mettiamo un attimo l'inno. Sì, del facciamo 50 sentire 50. Un pezzo perché è molto lungo. Esatto, però poi magari sulla fine della canzone cominciamo a leggere il nostro comunicato. Vabbè, così ricordiamo anche la nostra posizione, che insomma ci premeva chiarificare alcuni aspetti, tipo quello del separatismo, che per noi è fondamentale. Va bene, allora mandiamo un attimo l'inno. Orgoglio e libertà, forza e pluralità, idea di donne sulla nuova società, sono parole, ma non parole. Futuro e parità, impegno e verità, vita compiuta di reale integrità, sono parole, ma non parole. Negli occhi han forza ed onestà, le donne in questa società, 50 e più della metà. Dovunque si decide la nostra realtà, 50 più 50, noi dobbiamo essere là. Donne in sovranità, sulle note, come avevamo detto prima, di questo inno fatto per il 50 e 50, cominciamo a leggere il nostro documento politico. Allora, riteniamo fondamentale e non più rinviabile la questione dell'effettiva presenza delle donne all'interno delle istituzioni, così come in tutti gli altri luoghi dove si decidono e si attuano i cambiamenti sociali che incidono sulla vita di tutte e tutti noi. Il modello sociale patriarcale è stato ed è caratterizzato dall'esclusione e dallo sfruttamento continuo di un genere sull'altro, quello degli uomini sulle donne. Si tratta di uno sfruttamento a diversi livelli, da quello economico a quello sessuale. Uno stato di cose reso possibile dal fatto che il maschio non intende rinunciare ai privilegi di cui gode, perché ciò significherebbe mettere in discussione gli attuali equilibri sociali e perdere quote di potere a tutto vantaggio delle donne che, di fatto, sono ancora relegate in casa sia in senso metaforico che reale. Le donne, invece, quale soggetto storicamente oppresso, hanno, o dovrebbero avere, uno sguardo diverso, una diversa cultura umana e politica, un altro stile di vita, una differente capacità rispetto agli uomini di entrare in contatto diretto con le istanze del mondo. L'empowerment delle donne non è una semplice presa di potere fine a se stessa, ma rappresenta altresì un'assunzione di responsabilità delle donne per le donne. Reinterpretando il punto di vista e le strategie politiche si producono cambiamenti, sarà questa la vera evoluzione. Occorre darsi reciproco valore e riconoscimento, in questo gli uomini sono dei veri maestri. La nostra cultura, infatti, mentre prevede che le donne siano divise fra loro e schiacciate nei ruoli di puttane o madonne, fa in modo che al contrario i maschi fra loro si diano credito e si coalizzino per la conquista e la gestione del potere. Potere significa mettere in essere, sviluppare le potenzialità. In questa società le potenzialità delle donne vengono ignorate. Le donne, per dirla con De Beauvoir, sono il secondo sesso, un sesso di servizio. Non sta a noi riportare dati statistici rintracciabili ovunque, nelle indagini di mercato, dalle cronache dei giornali, fino ad arrivare alle sentenze della Cassazione. Quel che è certo è che se ci fossero più donne in Cassazione, non sarebbero state emanate sentenze tristemente famose come quella dei jeans o delle minorenni stuprabili impunemente perché non più vergini. Se ci fossero più donne ovunque si decide, la società sarebbe veramente più giusta, non solo per noi, ma anche per gli uomini. Le diverse sensibilità delle donne sono una ricchezza per tutte e tutti. In realtà, nonostante i dettati della Costituzione all'articolo 51 e di altri dispositivi legali della cosiddetta democrazia paritaria, la partecipazione delle donne viene contrastata e ridotta a semplice icona della democraticità degli uomini che, da sempre, hanno avuto accesso al corpo e alle menti delle donne, sentendosi autorizzati ad esercitare il potere soltanto nella sua accezione più deteriore. La presenza di poche donne, spesso in punti decisamente non strategici, garantisce al potere patriarcale un aspetto più moderno, meno feroce, ma contemporaneamente ne mette a nudo la falsità. Nello scritto Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf nel 1928, lei scrive: «Mi direte, le abbiamo chiesto di parlare delle donne, di romanzo, che c'entra avere una stanza tutta per sé? Cercherò di spiegarmi. Quando mi avete chiesto di parlare delle donne e del romanzo, mi sono seduta sulla riva di un fiume e ho cominciato a chiedermi cosa significassero queste parole. Tutto quello che potevo fare era offrirvi un'opinione su una questione piuttosto secondaria. Una donna deve avere soldi e una stanza tutta per sé se vuole scrivere romanzi». Oggi ci appare chiaro che Virginia aveva centrato la questione. Soldi e spazio, oggi, le questioni reali non sono poi così distanti da allora. Parafrasando la Woolf, dobbiamo avere una stanza tutta per noi laddove si decide anche per noi. Dobbiamo avere tempo e risorse da dedicare alla vita politica se vogliamo rompere la subalternità e l'emarginazione. Per questo siamo d'accordo sulla necessità di organizzare una democrazia fondata sulla cittadinanza duale per consentire alle donne di essere presenti a tutti gli effetti sulla scena politica e sociale. Questo può accadere, secondo noi, solo a condizione che sia possibile stringere un patto con tutte le donne, a qualsiasi livello si trovino ad operare, fondato su elementi condivisi e scambi continui. Come abbiamo avuto modo di ribadire in più occasioni, la forma politica che ci sembra più incisiva e che quindi scegliamo come nostra è non già la rappresentanza, ma la delega, che per sua natura prevede appunto un patto preciso, circoscritto e irrevocabile, continuamente sottoponibile a verifica. All'interno di questo patto la fiducia ha un posto estremamente significativo. Ci fidiamo le une delle altre perché stabiliamo insieme, di volta in volta, cosa farà e dirà la delegata e perché. In questo modo il contatto diretto con le altre, le deleganti, non sarà interrotto. Abbiamo mutuato questa pratica dalla nostra esperienza nel femminismo lesbo-separatista. Il movimento femminista degli anni 70, assunta coscienza di sé, ha elaborato un forte senso di estraneità nei confronti di un mondo che prende forma e che si sviluppa avendo come unico referente l'universo maschile e la sua forma organizzata. Un universo maschile che è basato oggi su di un pensiero unico, che a livello economico è quello del capitalismo e della compatibilità delle nostre vite e dei nostri desideri con le leggi di mercato. A livello culturale si basa su religioni maschili e monoteiste, che vanno pericolosamente acquisendo i caratteri dell'integralismo religioso vero e proprio. Dove non basta la persuasione culturale, il potere maschile difende se stesso tramite l'uso esplicito della violenza, violenza sessuale, femminicidio, guerra. La cattolicissima Italia è tutta all'interno di questa inaudita violenza. Il termine guerra non si usa più. Con ipocrisia e con la compiacenza dei mass media e di quasi tutte le forze politiche, la guerra si chiama missione di pace. I soldati uccisi si vorrebbero parificati alle vittime del terrorismo. Intanto le nostre truppe sono in Afghanistan ed in Afghanistan da anni c'è una guerra in corso. Ci dissero che le donne sarebbero state liberate dal burqa, ma non solo il burqa è sempre lì. Le donne sono ancora incarcerate per lesbismo e rifiuto del matrimonio, considerati reato. Nella cattolicissima, progredita ed occidentale Italia lo scorso anno i reati denunciati per gravi molesti o stupri ammontano alla cifra di 1 milione. E quelli non denunciati? E che dire della sentenza della Corte d'Appello di Milano datata 2 ottobre 2007, in cui i soavi giudici hanno decretato che toccare il sedere ad una donna non è reato ma ingiuria? Da quando in qua, tramite sentenza, si può impunemente stabilire che le mani emettono suoni e non subdole, schifose e violente toccatine? Nella cattolicissima, progredita e occidentale Italia, nell'anno domini 2006 ci sono stati 101 uxoricidi. Non conosciamo il numero esatto delle donne morte per mano dei fidanzati, amici o stupratori, ma sappiamo che per le donne fra i 15 e i 60 anni la violenza domestica è la prima causa di morte. La violenza contro le donne si insinua con mille sfaccettature nella quotidianità, di conseguenza a volte neanche ci accorgiamo più delle tante forme di sopraffazione che ci portano a percepire come normale il fatto che metà dell'umanità sia considerata vittima designata. È questa la base e la forza del sessismo. Da sempre si opera un controllo sulle donne che passa attraverso la dimensione corporea e la repressione violenta del desiderio sessuale, fino ad arrivare alla negazione totale dell'autodeterminazione femminile. Per questo diciamo che contro di noi è stata dichiarata una guerra che dura da secoli e tanto ci basta, o meglio, è anche troppo. I maschi non prendono provvedimenti contro loro stessi, un sesso controlla la totalità del paese e mentre violenta ed uccide parla d'altro. Questa non è semplice disparità, non è sproporzione, questa è la cultura dominante che ci determina prima ancora della nascita. Allora occorre passare dalla denuncia all'azione e dunque ben venga uno strumento come quello del 50-50, ovunque si decide. Ancora una volta per noi le referente privilegiate sono le donne. Rilanciamo una scommessa che è fatta di storie e di pratiche. Ad esempio la pratica del separatismo, a noi cara, continua a considerare la centralità femminile in termini di ricerca alternativa, di produzione di pensiero e di sperimentazione del reale. Questa è la nostra assunzione di responsabilità e questo è l'invito che rivolgiamo a tutte, perché è dalle donne che viene la forza delle donne. Allora io mi sono dimenticata di dire che avrebbe letto anche questa sera Elena, che ringraziamo di essere qui con Buonasera noi. Buonasera a tutte. Allora abbiamo fatto come al solito, Rosina, abbiamo chiacchierato tanto, io direi di mettere un po' di musica e poi alleggerire un po' la trasmissione magari con qualche poesia, qualche racconto, vediamo un attimo. o barzellette, se ne sapete qualcuna magari ci telefonate e ce le dite. Allora io adesso provo a leggere il titolo di una canzone, ma siccome io ripeto parlo solo il finlandese, lo scandinavo anche mi diletto, ma insomma questa è inglese, è la lingua del padrone, non lo so dire bene. Io lo leggo, poi non vi mettete a ride, però lo canta Anastasia. Allora, who's gonna stop the rain? Le renne forse c'entrano? No, no, vabbè, renne, piove, piove, non lo so, vabbè, io ve la faccio ascoltare che forse la voce di Anastasia è decisamente molto meglio della mia. Vado. To the flame. Tell me who's gonna

child drives me out of my mind. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, when my baby kisses me, chills run up and down my spine. When my baby, she's alright. Well, my baby, she's clean out of sight. Don't you know that? So kind of wonderful. Yes, she is. Is there anybody, is there anybody got a sweet little woman like mine? Got to be somebody. I know there's somebody got a sweet little woman like mine. Can I get a witness? Can I get a witness? Can I get a witness? Can I get a witness? Yeah, yeah, some kind of wonderful. Some kind of wonderful. Yes, she is. Some kind of wonderful. Allora io volevo ringraziare nuovamente Francesca per questa bella favola che ci ha letto, e mi è venuta in mente un'idea che sicuramente anche altre donne hanno scritto delle favolette, magari prendendo spunto da quelle tradizionali, cambiando il finale o la trama stessa, oppure inventandone qualcuna di sana pianta. Se vi fa piacere potete mandarcele o portarcele qui in radio, sarà come un grande piacere. Poi abbiamo la lettrice ufficiale delle favole, per cui insomma favole, potete sicuramente racconti, favole, poesie, racconti, poesie, sì, tutto lunghi quello, romanzi. Beh, e oddio, romanzi possiamo farle appuntate, perché magari è un po' difficile. Possiamo farle appuntate, i romanzi, no, come, i romanzi d'appendice li possiamo leggere appuntate. Appendice. Dunque, direi di rimanere in tema di ballo, perché esatto, se veramente volete essere delle donne fortunate e trovare qualcosa di meraviglioso, potrete fare un tentativo questo sabato 20 ottobre al Buon Pastore, perché il Centro Femminista Separatista terrà appunto una serata di poesia dal titolo Anemos, incontri tra Soffi Peregrini dell'Anima con Maria Lorena Magliocco e Monica Maggi. In programmazione ci sarà alle 20:30 in via San Francesco di Sales 1B una cena di autofinanziamento appunto del Centro Femminista Separatista. Venite digiune, chiaramente. Venite digiune, naturalmente, per mangiare. Venite copiose e copione. E alle 22 ci sarà appunto questo happening di poesia. E a come seguire. Parli bene. Che ci sarà? Ridillo. Un happening. Happening. Mi gira di esprimermi così stasera. Ci sarà. Alle 22, dopo le 22, dopo la serata, dopo la poesia, ci sarà a seguire la Lesbo Dance, quindi potrete vedere Francesca che si produrrà in esercizi acrobatici. Non abbiamo il cubo però. Non abbiamo? Il cubo. Non ha importanza, lei è così brava che danza addirittura sulla sfera. Visto le mie dimensioni e la mia mole posso fare da cubo però. No, non è vero, non è vero. Dunque, a questo punto il tempo è tirannissimo, stiamo appunto per esaurirlo. Concludere. Noi siamo già esauriti da un pezzo. Sì, noi quello sì. Possiamo mandare un'altra meravigliosa canzone, bella, se dici il titolo tu, perché sennò poi si certo, mettono a ridere. The Pleasure Song, canta Marianne Faithfull, e su questa canzone vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo, non sappiamo ancora se con la replica di questa trasmissione o con la speranza di avere con l'intervista qui alla donna dei Morales. Va bene? La donna dei Morales. La donna dei Morales. Un saluto e a martedì prossimo, comunque, in ogni caso. Vi salutano Caterina, Elena, Francesca e Rosina. Ciao, okay. Buonanotte. Ciao, ciao. So much more. So much more love to give. I got so much more. So much love. So much.